Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Anche il governo deve fare la sua parte, sulla base poi di quello che sarà tra 3 settimane il piano, e di un confronto serio e costruttivo col sindacato per mettere una volta per tutte questa azienda con una struttura di costi competitiva, cosa che oggi anche un bambino di 2 anni vede che rispetto ai low cost non lo è. Così ha risposto Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Alitalia, al ministro dello sviluppo economico Calenda, che oggi l'aveva strigliato dicendo che insomma è stata Alitalia mal gestita finora, e i sindacati hanno esultato. Montezemolo poi ha risposto così, e anche diciamo in seguito a questa polemica che è arrivata dopo che nei giorni scorsi i vertici di Alitalia, senza però il presidente Montezemolo, si erano presentati al ministro dello sviluppo economico, appunto Calenda e a Del Rio, senza un piano industriale. Quindi qui il governo che striglia all'Italia e la risposta di Montezemolo. Oggi però è finita sotto i riflettori soprattutto Fiat Chrysler, perché le agenzie di controllo degli Stati Uniti l'hanno accusata di fare praticamente un po' il gioco di Volkswagen, cioè vi ricordate il Dieselgate, di truccare le emissioni inquinanti. Marchione non ci sta e dice: no, noi non siamo come Volkswagen, noi abbiamo la coscienza pulita. Poi approfondiremo questo argomento, cercheremo di capire effettivamente come stanno le cose, e purtroppo vi devo aggiornare anche sul bollettino delle violenze contro le donne. È iniziato il 2017 in un modo terribile. Oggi un uomo a Napoli ha sparato all'ex moglie e al suo nuovo compagno, e sono molto gravi, ma non in pericolo di vita, e pensate che anni fa aveva già ucciso la prima moglie. Insomma, veramente non c'è fine a questa sequenza orribile di violenze, così come ha detto la Presidente della Camera oggi Boldrini, dicendo non ci si può rassegnare a tutto questo, perché ormai veramente rischia di diventare routine. Molti i temi questa sera. Per i vostri commenti, come sempre, le vostre domande, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp, che è 349-238-6666. E come sempre vi racconto la giornata. Fiat Chrysler accusata negli Stati Uniti. Secondo le autorità di controllo americane ha falsato i dati sulle emissioni. Il titolo crolla, ma l'amministratore delegato Marchione non ci sta e dice: non siamo con la Volkswagen, la nostra coscienza è pulita. Decreto banche, il ministro Padoa in audizione sottolinea: sono stati venduti prodotti rischiosi ai piccoli risparmiatori. Libia, i governativi riprendono controllo dopo un assalto delle milizie. L'ambasciatore italiano smentisce il golpe dell'ex premier Gvevel. L'inchiesta sul cyberspionaggio, denunciato anche un carabiniere, tramite lui un amico massone voleva verificare se i due fratelli Occhionero, poi arrestati, erano indagati. Violenza senza fine sulle donne. A Napoli un uomo spara all'ex moglie e al nuovo compagno di lei. In passato aveva già ucciso la prima moglie. La presidente della Camera Boldrini chiede di non rassegnarsi a questa impressionante sequenza di orrori. Le studentesse morte in Catalogna. Un giudice spagnolo riapre le indagini sull'incidente del bus. Consulenze d'oro, l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti condannata a pagare 590.000 euro. E per il calcio la Coppa Italia con in campo Milan-Torino. Partiamo quindi dal caso Fiat Chrysler. Dopo il Dieselgate che aveva travolto Volkswagen ma di fatto risparmiato l'ex casa torinese, le autorità statunitensi accusano la casa automobilistica di aver falsato i dati sulle emissioni e minacciano una multa da 4,5 miliardi di dollari. A farne le spese sono i titoli in borsa, che alla notizia crollano dell'11,8% a Wall Street e vengono poi congelati a Milano, dove in seguito precipitano. L'amministratore delegato Sergio Marchionne replica: non si siamo come la Volkswagen, la nostra coscienza è pulita e cercheremo di risolvere con l'amministrazione Trump. E tra poco, come vi dicevo, cercheremo di capire meglio se effettivamente è un altro caso Volkswagen oppure ci sono delle regole diverse tra Europa e Stati Uniti. E sotto i riflettori in giornata era finita anche all'Italia. Il presidente Montezemolo ha garantito di presentare un piano industriale entro 21 giorni. L'azienda è stata gestita male, le colpe non possono ricadere sui lavoratori. Dura bacchettata del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ai vertici dell'ex compagnia di bandiera. Non esiste che si parli di esuberi prima di un piano industriale, ha detto ancora il ministro, tornando a chiedere all'azienda la presentazione di un piano industriale dettagliato, condiviso dagli azionisti, dalle banche e dalle istituzioni finanziarie. Arriverà entro 3 settimane la risposta a stretto giro del presidente Luca Cordero di Montezemolo, il quale non si è sbilanciato sbilanciato sui possibili esuberi quantificati in circa 1.500 da alcune indiscrezioni di stampa, mentre ha ammesso i risultati negativi non si possono negare, ma il vero problema è il modello di business. Oggi l'Alitalia si trova a non essere né un low cost né una compagnia solo focalizzata sul lungo raggio. Montezemolo ha invitato poi a mettere da parte le polemiche. È un momento positivo, una fase costruttiva e anche con i sindacati siamo sulla stessa barca. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E dopo la saga infinita di Alitalia, il decreto banche, oggi c'è stata l'audizione del ministro Padoan. Le banche in alcuni casi hanno venduto prodotti finanziari impropri in modo illecito ai risparmiatori. Ora, dice il ministro dell'economia per Carlo Padoan, va sanzionato chi ha causato danni anche alla collettività. Il governo auspica che la giustizia individui le responsabilità e sanzioni adeguatamente i colpevoli. La percezione negativa sul settore bancario, secondo Padoan, è però sbagliata. Con il decreto sulle banche e la ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena, il settore bancario sta voltando pagina con possibili effetti positivi sull'economia. Non è affatto da escludersi l'innesco di un circolo virtuoso tra consolidamento bancario, pulizia dei bilanci, ripresa della crescita e quindi un ritorno a condizioni quantomeno di normalità e di uscita definitiva dalla crisi. I risparmiatori danneggiati, assicura Padoan, saranno tutelati. I rimborsi, stima il ministro, per i piccoli azionisti delle quattro banche regionali, ossia Banca Etruria, Banca Marche e le casse di risparmio di Ferrara e Chieti, arriveranno alla fine a 190 milioni di euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Occupiamoci di lavoro adesso perché dopo la sentenza di ieri della Consulta parte la corsa per la modifica dei voucher. Si voteranno entro la metà di giugno i referendum sul Jobs Act voluti dalla CGIL. Dopo la bocciatura di quello sull'articolo 18 da parte della Consulta, il confronto ora si sposta sul quesito che chiede l'abolizione dei voucher, strumento che per il sindacato è diventato la nuova frontiera del precariato. Il governo ribadisce di voler modificare le norme che ne regolano l'utilizzo. Non sarà un intervento di facciata fatto solo per scongiurare il referendum, assicura il ministro del Lavoro Poletti. Dobbiamo fare in modo che si eviti un uso improprio, un uso che non è figlio delle ragioni per le quali i voucher sono stati istituiti. Sull'articolo 18 la battaglia va avanti, avverte intanto la leader della CGIL Camusso, che in un'intervista su Repubblica.it sui voucher invece ribadisce non bastano correzioni, vanno aboliti. Quello strumento lì, costruito in quel modo, uno strumento malato, non lo puoi più correggere. Non è che possiamo aspettare che diventino un contagio insopportabile per proporci il problema. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora all'estero, con la Libia, miliziani armati hanno assaltato oggi i ministeri della difesa, della giustizia e dell'economia a Tripoli. Dopo pesanti scontri, le forze governative fedeli al consiglio presidenziale di al-Sarraj hanno ripreso il controllo della situazione. L'ex premier Gewel ha annunciato un colpo di Stato, ma l'ambasciatore italiano a Tripoli ha smentito, spiegando che le sedi istituzionali del governo Sarraj sono al lavoro. Di nuovo in Italia adesso con l'inchiesta sul cyberspionaggio, un vice brigadiere dei carabinieri è stato denunciato all'autorità giudiziaria per aver commissionato l'accesso al sistema di indagine delle forze dell'ordine per verificare la sussistenza di procedimenti penali nei confronti di Giulio e Francesca Occhionero, i due presunti cybercrime finiti in carcere lunedì scorso, di cui abbiamo parlato in questi giorni. Il militare ha ammesso di aver fatto eseguire l'accesso su richiesta di un suo amico massone della stessa loggia alla quale appartiene Giulio Occhionero. E poi la violenza infinita sulle donne, ancora un tentativo di femminicidio. A Napoli un uomo, Giuseppe Antonucci, ha sparato e ferito l'ex moglie e il compagno di lei. Sono gravi, non in pericolo di vita, e si apprende che lo stesso Antonucci ha coltellato e ucciso la prima moglie, Loredana Esposito, il 25 gennaio del 1991, quindi quasi 26 anni fa. Per quell'omicidio Antonucci venne condannato a 20 anni di carcere e in quell'occasione, al culmine di questa lite nell'abitazione della coppia, Antonucci ferì anche il cognato e la suocera. E la presidente della Camera Boldrini, viste appunto le tante notizie nei pochi giorni, questi pochi giorni dall'inizio del 2017, in una nota chiede di non rassegnarsi a questa impressionante sequenza di orrori. La politica, le condizioni del Presidente del Consiglio, è prevedibile la dimissione dall'ospedale di Paolo Gentiloni già in settimana, lo si apprende dal bollettino del Policlinico Gemelli sulle condizioni del Premier dopo l'impianto di uno stent. L'ospedale conferma l'ottimo decorso della situazione clinica. Parleremo poi più tardi invece di un certo malessere che serpeggia all'interno del Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo la fallita alleanza con l'ALDE. Ora però tema dei migranti, a dominare nella capitale dove è stato in visita il commissario europeo Avramopoulos. Italy is under huge pressure. Basta morti nel Mediterraneo e via libera europeo sui rimpatri dei clandestini promosso dall'Italia. Il bilaterale tra il commissario europeo Avramopoulos e il neo ministro dell'interno Minniti si chiude senza particolari novità, ma con il riconoscimento europeo che la penisola è oggetto di una pressione enorme. Contiamo molto sull'Italia, avete bisogno del nostro sostegno, dice Avramopoulos, nel giorno in cui il capo dell'ufficio ONU per i rifugiati Costel spara a zero a Bruxelles sui ricollocamenti. Cifre troppo basse, numeri inaccettabili, dice Costel, certificando il fallimento comunitario nell'alleviare la pressione sull'Europa del Sud, anche a causa del catenaccio fatto dai paesi dell'Est. L'aria però è cambiata con l'arrivo di Malta al timone dell'Unione. La solidarietà è solidarietà, punto, dice il ministro dell'interno maltese Abela, dopo che il premier Muscat porta l'accordo italo-libico ad esempio, e avverte Muscat: Roma va aiutata prima che l'emergenza migranti riprenda in primavera. Allarme ribadito anche dall'ONU: l'Europa si deve preparare a nuovi possibili flussi, siamo preoccupati perché in diversi casi l'Unione non sembra avere né un piano A né un piano B. In Italia infine attimi di tensione a Firenze durante la protesta degli stranieri rifugiatisi nell'immobile andato in fiamme a Sesto Fiorentino, necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la vicenda delle consulenze d'oro. L'ex sindaca di Milano Letizia Moratti, la sua giunta e alcuni ex dirigenti comunali sono stati condannati in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale a versare oltre 1 milione di euro per danno erariale nell'ambito della vicenda appunto delle consulenze d'oro del 2007. L'ex prima cittadina dovrà versare oltre 591.000 euro per 2 voci di spesa, 11 incarichi dirigenziali esterni e non laureati per quasi 1.900.000 euro e retribuzioni ritenute troppo costose, più di 1 milione di euro di alcuni addetti stampa. Ancora la cronaca: avrebbe tentato di uccidere la figlia di 3 anni durante un ricovero all'ospedale Bambin Gesù di Roma, somministrandole farmaci sedativi che le hanno provocato 2 episodi di arresto cardiorespiratorio. La donna, una 30enne che abita a Napoli, è stata arrestata oggi dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. E già il Tribunale per i minorenni di Napoli aveva disposto il divieto di avvicinamento di entrambi i genitori alla bambina. L'incidente del bus in Spagna, vi ricordate, dove morirono 13 studentesse, tra cui 7 italiane? Ebbene, il Tribunale spagnolo di Amposta, in Catalogna, ha deciso di riaprire l'investigazione penale sull'incidente del bus Erasmus, accettando quindi il ricorso contro l'archiviazione disposta lo scorso novembre, presentato dalle famiglie delle vittime. E parliamo adesso di un record, entrata nel Guinness World Record, del quale è stata appena pubblicata l'edizione 2017, l'impresa della pizza più lunga del mondo, quella del 18 maggio 2016 a Napoli, giorno in cui 5 forni a legna appositamente progettati e costruiti esclusivamente per l'occasione riuscirono a cuocere 88 metri di pizza, superando il precedente record raggiunto a Milano durante Expo 2015. E per chiudere abbiamo la partita in corso di Coppa Italia, Milan-Torino, che vedo procedere per il momento con un tranquillo, se così possiamo dire, 0-0. Intanto vi ricordo, tra poco cominciamo dopo la viabilità ad approfondire alcuni temi in particolare, cerchiamo prima di tutto di capire appunto come stanno le cose con queste accuse degli Stati Uniti nei confronti di Fiat Chrysler. È davvero un altro caso Volkswagen? Tra poco lo sapremo. Per i vostri messaggi vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie ve le ho raccontate in sintesi, poi tra poco, se non avete acceso puntualmente alle 21, vi ricordo i titoli, i fatti principali. Intanto i vostri commenti, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, vi ricordo, oppure al numero 349-238-6666. C'è questo ascoltatore o ascoltatrice, vi dico se mettete un nome qualunque, anche un nome d'arte, dice: l'Italia è una schifezza nazionale, sempre gestita da ladroni tranquillamente impuniti, lasciamola fallire, non devono essere gli italiani a pagare, però è la compagnia italiana e quindi insomma si cerca di fare il possibile. Vedremo questo piano industriale nei prossimi giorni. Dopodiché invece sulla scia infinita di violenze contro le donne, di cui anche parleremo nel corso di questa puntata di Effetto Notte, Una Laura, un'ascoltatrice, dice: l'uomo che oggi ha tentato di uccidere l'ex compagna e il nuovo partner di lei, cosa ci faceva a piede libero e armato se aveva già ucciso la moglie? E siccome la moglie l'aveva uccisa 26 anni fa, evidentemente ha fatto qualche anno di carcere e poi lo hanno liberato. Poi chiederemo anche perché, insomma, un uomo che ha compiuto già un gesto del genere, è un dubbio che a me viene anche come sia stato possibile che un'altra donna lo abbia sposato, lo sapeva o non lo sapeva che aveva ucciso la moglie. Questo non, naturalmente, non giustifica assolutamente niente, ma un personaggio del genere dovrebbe veramente stare a grandissima distanza da qualsiasi altra donna. Comunque, adesso vi ricordo quali sono i fatti principali della giornata e poi cominciamo a approfondire i vari argomenti. Fiat Chrysler accusata negli Stati Uniti, secondo le autorità di controllo americane ha falsato i dati sulle emissioni, però Marchionne dice: no, non è vero, non siamo come Volkswagen, la nostra coscienza è pulita. Per quanto riguarda il decreto banche, il ministro Padoan oggi in audizione ha sottolineato che chi ha gestito male, insomma, avrà delle sanzioni. E sanzioni ai manager delle banche, la giustizia faccia presto e dice sono stati venduti prodotti rischiosi ai piccoli risparmiatori. La Libia, c'è stato un tentativo di golpe, oggi però i governativi hanno ripreso il controllo e l'ambasciatore, aperto proprio in questi giorni l'ambasciata italiana di nuovo in Libia, smentisce che ci sia stato un golpe e dice stiamo lavorando. L'inchiesta sul cyberspionaggio, è denunciato anche un carabiniere, tramite lui un amico massone voleva verificare se i due fratelli Occhionero che sono stati arrestati questi giorni erano indagati. La violenza sulle donne, ne parleremo tra poco. A Napoli un uomo ha sparato appunto l'ex moglie al nuovo compagno di lei, in passato aveva già ucciso la prima moglie. E poi le consulenze d'oro, l'ex sindaca di Milano Letizia Moratti condannata a pagare 590.000 euro. La Coppa Italia con Milan Torino prosegue 0-0. Non so se Andrea Malan sia tifoso. Andrea, adesso alle 24 ore? Sono tifoso, ma non delle due squadre in campo. Bene, allora sei tranquillo. Niente. Sono tranquillissimo. Senti, invece dobbiamo stare tranquilli su Fiat, perché ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori appunto che l'accusa negli Stati Uniti è che sono stati falsati i dati sulle emissioni. Dopo il Dieselgate, ce lo ricordiamo, che aveva travolto Volkswagen, che proprio in questi giorni sembra abbia raggiunto un accordo, insomma, negli Stati Uniti, ma che aveva risparmiato questo Dieselgate, comunque la Fiat, le autorità statunitensi accusano la casa automobilistica di aver falsato appunto i dati sulle emissioni, minacciano di farle pagare più di 4 miliardi e mezzo di dollari. Però Marchionne dice non è vero, non è il caso Volkswagen, noi abbiamo la coscienza pulita, risolveremo con Trump. Come stanno le cose secondo te, Andrea? Faccio una premessa su Volkswagen, sì. Mi permetto, visto che appunto hai citato tu l'accordo che è stato appena raggiunto. Volkswagen ha pagato negli Stati Uniti finora una ventina di miliardi tra multe, risarcimenti ai clienti, eccetera, eccetera. Ricordiamo che aveva messo nei motori diesel un software che in sostanza riconosceva i test antinquinamento, attivava il sistema di controllo in caso di test, al di fuori dei test lo spegneva. Quindi era un software chiaramente fraudolento. Il caso di Fiat è completamente diverso. Di cosa è accusata Fiat? È accusata di... L'accusa è sempre relativa al software del motore diesel, sì. Quindi il tema è lo stesso e il tema è quello delle emissioni di inquinanti, in particolare gli ossidi di azoto, che sono un problema grave soprattutto nelle grandi città in concentrazioni elevate. Il software che avrebbe installato Fiat in sostanza regolerebbe queste emissioni a seconda delle temperature e delle condizioni di guida. Ora l'ente americano, l'EPA, l'ente per l'ambiente, contesta due cose: il fatto che questo software nei suoi dettagli non sia stato dichiarato, perché diciamo i software che variano il comportamento dei sistemi antinquinamento vanno sempre dichiarati, e il fatto che poi alla fine nei test effettuati questi veicoli, che ricordiamo hanno dei motori diesel molto grossi da 3 litri, 3.000 di cilindrata, sono un furgone Ram che non è neanche importato in Italia e la Jeep Grand Cherokee che invece è importata in Italia, sì. Ma che però è uscita adesso una nota del Ministero, in Italia quel motore diesel ha una calibrazione diversa. Quindi è un problema che anche qualora si dovessero fare delle modifiche non riguarda in ogni caso i veicoli venduti nel nostro paese. Quindi tornando a noi, il problema per gli americani sono questi due, cioè valori superiori alla norma e la mancata comunicazione. Ora, sui valori superiori alla norma bisogna dire una cosa: la calibrazione del software dei motori diesel che in determinate condizioni ambientali riduce l'effetto antinquinamento, è una cosa che in Europa fanno tutti i costruttori. Diciamo, è quella che si potrebbe definire un'elusione dello spirito della norma, un'elusione che però è permessa da come la norma è scritta. Questo vale per Fiat, per Renault, per Opel, per altri costruttori in Europa, tedeschi. In Europa. In Europa, perché la normativa europea è scritta in modo che il costruttore, se dichiara che devo staccare il mio sistema antinquinamento perché altrimenti il motore si danneggia, può farlo in quasi tutte le condizioni. Ci sono stati casi molto che sono venuti fuori dai test fatti negli scorsi anni in cui c'erano casi, adesso non lo cito perché non mi ricordo, ma non era Fiat, che al di sotto di una certa temperatura, diciamo 15 gradi, temperatura ambientale, staccavano il filtro antinquinamento. Questo cosa vuol dire? Che in condizioni europee normali, nel nord Italia, per esempio, uno girerebbe con il filtro staccato per metà del tempo. Già. Quindi questa è una cosa che in Europa è ammessa. È possibile che su questo punto gli americani siano un po' più esigenti, nel senso dicono sì, ok, va bene proteggere il motore, ma se il risultato è che mi fate girare questi motori per tre quarti del tempo e si inquina di più, dovreste trovare un sistema di antinquinamento più efficace. Però ecco, queste sono ipotesi che formuliamo sulla base di quello che succede in Europa e in parte che sono state anche confermate. Sergio Marchionne ha parlato poco fa con i giornalisti dicendo noi innanzitutto ha rigorosamente escluso l'intento di frodare, appunto dice noi non volevamo frodare nessuno, possiamo aver fatto degli errori tecnici appunto nella documentazione o nell'omologazione dei veicoli, ma non c'è stato un intento fraudolento e anche per questo ha detto sarebbe un po' assurdo che noi pagassimo 4 miliardi e mezzo di multa quando la Volkswagen con una frode acclarata e ammessa ne ha pagati alla fine di multa vera e propria 2 miliardi e 7. Quindi in realtà anche la reazione di panico della borsa di oggi è un po' dovuta un po' al fatto che di Volkswagen si continua a parlare, c'è stato un altro accordo extragiudiziale l'altro giorno, sì, quindi infatti è un tema che purtroppo per Volkswagen, ma in generale è rimasto comunque molto nel discorso ed è rimasto molto presente agli americani. Ricordiamo che Volkswagen è stata punita per Dieselgate solo negli Stati Uniti, in Europa non è stata ancora punita, probabilmente non lo sarà proprio perché per questo lassismo, questo lassismo delle nostre regole, perché le norme sono fatte in modo diverso e perché soprattutto le norme vengono fatte applicare in Europa non a livello europeo, i 28 paesi della UE, domani saranno 27 tra un po', ma insomma 28, ma dai singoli paesi, cioè la Volkswagen viene controllata, verificata e monitorata dall'autorità tedesca e l'autorità tedesca non aveva mai rilevato nulla di particolare finché il Dieselgate non è scoppiato negli Stati Uniti. Comunque, detto questo, invece, Fiat Chrysler è un'azienda italo-americana, ma tra l'altro è un'azienda che fattura e fa utili molto più in America che in Europa oramai, perché Chrysler è diventata più grossa di Fiat, e quindi si comprende la preoccupazione di Sergio Marchionne e il rischio che il mercato ha immediatamente percepito che un problema di questo tipo, anche se non si capisce ancora quanto possa pesare, sia molto grave, e di qui le vendite. Ricordo peraltro che sto guardando adesso le quotazioni, in Italia stasera Fiat ha chiuso a meno 16% a Piazza Affari, la quotazione attuale a Wall Street chiude tra una mezz'oretta e attualmente il titolo sta perdendo il 10%, quindi un po' meno, cioè un pochino meno in Europa, un pochino meno panico, certo. Ma insomma, vedremo nei prossimi giorni se effettivamente poi con la, come dice Marchionne, con l'amministrazione Trump si riuscirà a trovare una soluzione. Grazie intanto Andrea Malan di Sole 24 Ore. Arrivederci, buonasera a tutti. Ciao Andrea, buon lavoro. Adesso ci fermiamo brevemente, ci prendiamo questa piccola pausa. I vostri messaggi alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore o ascoltatrice, ritornando ancora alla violenza sulle donne, di cui parleremo tra poco, dice: caspita Roberta, non ricorda di quella direttrice di un carcere che sposò un detenuto con gravi reati a suo danno? A suo danno non credo della direttrice, ma che aveva probabilmente fatto nella vita gravi reati. E poi sì, certo, sono purtroppo varie le donne, non tantissime, quelle che naturalmente sopportano negli anni i maltrattamenti, quelle che magari, non so, anche Pietro Maso, vi ricordate, quello che aveva ritornato un po' in auge vista il duplice omicidio di questo figlio sedicenne a Ferrara. Maso, vi ricordate, a Verona anni fa, che uccise i genitori insieme a degli amici, e anche lui aveva trovato una compagna, e altri anche hanno commesso reati efferati, hanno trovato delle compagne, però sono, diciamo, per fortuna delle eccezioni. In ogni caso, ormai è diffusa la consapevolezza da parte delle donne, anche se questa ragazza, che in questi giorni è stata data alle fiamme dall'ex, lo difende strenuamente. Gran parte delle donne adesso, specie le più giovani, sono consapevoli, lasciano a un certo punto gli uomini maltrattanti. Il problema è che quando li lasciano e li denunciano, in realtà poi, se non vengono messe sotto sicurezza, la fine che fanno è quella che raccontiamo ogni due o tre giorni. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Allora, adesso, dopo avervi raccontato tutta la giornata in sintesi, aver parlato ampiamente di questa accusa degli Stati Uniti nei confronti di Fiat Chrysler, con il titolo che è crollato oggi in borsa, e con anche alcuni vostri messaggi ancora su questo argomento, tra poco ne leggerò uno, adesso passiamo ad altri temi. Però vi dicevo, per le vostre osservazioni c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666. Scrive un ascoltatore: in Europa non ci sono le lobby come negli Stati Uniti, sono manovre dissuasive per favorire la generazione elettrica, dice, delle auto negli Stati Uniti. E poi invece sull'argomento di cui parleremo tra pochissimo, scrive un ascoltatore che si firma F: perché non proponete una variazione di legge che obblighi la magistratura a proteggere fisicamente le donne che hanno con un ricorso chiesto difesa dagli stalker e dai violenti? È una cosa simile a questa che si chiede da tempo anche l'avvocata Giulia Buongiorno, che è tra le donne in prima fila in questa battaglia, da tempo chiede una specie di commissario straordinario. Il fatto è che veramente, al di là di quello che si fa, e soprattutto a livello di associazioni di donne che anche non hanno tutti questi finanziamenti, in realtà forse la politica continua a sottovalutare questo fenomeno, e alla fine diventa come una routine. Io chiedo sempre che cosa succederebbe in Italia, come nel mondo, ma in particolare in Italia, se fossero le donne ogni due o tre giorni ad ammazzare il marito, ex marito, fidanzato, ex fidanzato. Sicuramente non ci sarebbe questo senso di rassegnazione, di abitudine e di routine. Ne parleremo tra breve. Vi ricordo quali sono i titoli principali. Abbiamo appena parlato di Fiat Chrysler, che è accusata negli Stati Uniti di truccare le emissioni. Il titolo crolla, ma l'amministratore delegato Marchionne dice: non è un caso Volkswagen, noi abbiamo la coscienza pulita. Sul decreto banche, il ministro Paudan in audizione sottolinea che saranno sanzionati i manager colpevoli, e dice: sono stati venduti prodotti rischiosi ai piccoli risparmiatori. In Libia i miliziani hanno cercato di attaccare il governo con un golpe, ma per fortuna è rientrato, i governativi riprendono il controllo, e l'ambasciatore italiano ha riaperto in questi giorni proprio l'ambasciata italiana, dice: qui stiamo lavorando, tutto sembra ritornato nella norma. L'inchiesta sul cyberspionaggio, è denunciato anche un carabiniere, tramite lui un amico massone voleva verificare se i due fratelli Occhionero che sono stati arrestati erano indagati. Violenza sulle donne, ne parleremo tra pochissimo. E poi per il calcio, per la Coppa Italia, Milan-Torino, per il momento in vantaggio il Torino per 1-0. Dicevo, quindi un 2017 iniziato in Italia davvero nel peggiore dei modi per quanto riguarda la violenza maschile contro le donne. Ci sono stati, in una dozzina di giorni neanche, ben 4 tentativi di femminicidi, e noi ne parliamo solo quando si arriva ai gesti estremi, perché tutto il diffusissimo fenomeno dei maltrattamenti non viene alla luce finché non succede questo. Allora, tanto per elencare, dall'inizio dell'anno la 22enne di Messina, a cui l'ex fidanzato ha dato fuoco e lei per fortuna non in pericolo di vita, però assurdamente lo difende, questo nonostante le prove documentate degli inquirenti, questo a conferma di come tanta parte di donne continui a interiorizzare questo ruolo di serie B rispetto all'uomo accanto e anche di ritenere normale, insomma, l'oppressività, la violenza maschile. Poi nel Mantovano un uomo che ha cercato di strangolare la moglie che voleva la separazione, poi lei è riuscita a mettersi in salvo e a chiamare i carabinieri, lui poi si è suicidato. A Rimini, questa ex Miss Romagna, una ragazza bellissima che è stata sfregiata dal suo ex proprio a voler cancellare la sua identità, a volerle dire visto che non posso più usufruire della tua bellezza, che non è più mia, nessuno potrà usufruirne, tantomeno tu stessa. E poi oggi a Napoli un uomo, Giuseppe Antonucci, ha sparato e ferito all'ex moglie e al compagno, al nuovo compagno di lei, sono gravi, non in pericolo di vita, però poi si scopre che lui 26 anni fa aveva ucciso la prima moglie. Insomma, una mattanza che non accenna a diminuire. Lo chiedo ad Anna Boldri. Buonasera, professoressa. Buonasera a tutti. Che è criminologa, psicologa docente di psicologia sociale all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che tra l'altro ha scritto diversi libri su questo argomento, Uomini che uccidono, e poi Dai maltrattamenti all'omicidio, la valutazione del rischio della recidiva e dell'uxoricidio. Quindi recidiva, appunto, anche in questo caso ne abbiamo. Ci ritroviamo ogni tot, professoressa, a parlare di questa scia senza fine che veramente rischia di diventare una routine che passa un po' così in sottofondo, come un rumore di quelli a cui siamo abituati ormai a sentire senza farci più caso. Sì, diciamo che noi che ce ne occupiamo da tanto tempo purtroppo non vediamo nulla di diverso da quello che succede ormai da anni, da secoli potremmo dire. Quello che c'è da dire è da chiedersi, da indignarsi, come giustamente veniva anche ricordato prima, perché a fronte di questa anche attenzione dei mass media, della politica, delle leggi, non c'è una diminuzione. Ecco, questo è il problema grosso, è duplice, diciamo, perché quello che si sta facendo forse non è sufficiente e perché piuttosto che dire perché le vittime non denunciano, perché denunciano, perché ci tornano insieme o meno, capire perché gli uomini continuano a usare la violenza come strumento di soppressione del genere femminile, che probabilmente, non so, se è un odio atavico o un problema talmente così diffuso che non possiamo invocare niente in termini di livello socio-economico, di nord, di sud, italiani, stranieri, con precedenti penali, senza precedenti penali, fanno uso di sostanze. È trasversale a 360 gradi e quindi quello che accomuna tutti questi reati è il genere maschile. È vero che qualcuno dice basta parlare di femminicidi, allora le donne, no, che usano la violenza, allora qui bisogna fare riferimento a ciò che oggettivamente, anche da un punto di vista del dato, perché questo ci serve per sapere che cosa succede in Italia, i dati sono questi, sono quelli di cui appunto anche voi ricordate costantemente. Allora c'è da domandarsi appunto cosa di più si può fare, non che quello che è fatto è tutto da buttare. Sicuramente quello che io posso dire, insomma, è più 20 anni che mi occupo di queste problematiche, anche lavorando nei centri antiviolenza, certo, che tocca ferro, però una percentuale irrisoria di donne che sono state nei centri antiviolenza, parlo delle strutture che sono diffuse in tutto il territorio nazionale, in particolar modo quelle che fanno parte della rete Dire, che quindi sono gestite da associazioni di donne contro violenza delle donne, che hanno anni e anni di esperienza, proprio che non è assistenzialismo, no? Il momento in cui la donna ha un bisogno glielo rispondono, ma proprio di percorso, di uscita, di elaborazione del significato della violenza che hanno subito, dicevo che una percentuale veramente irrisoria, praticamente nulla, erano donne, quelle che sono state uccise, che erano transitate dai centri antiviolenza, che avevano chiesto aiuto non solo alle forze dell'ordine, fondamentale, che poi da qui però ovviamente deve far seguito anche una tutela costante, non sì, solo nel momento stesso in cui si dice la donna parla, sì certo io ne parlo, ma è quotidiana la mia esperienza di donne che dicono ma poi cosa succede dopo, poi mi garantite che lui non è più violento, chiunque insomma onesto dice no. Allora qui dicevo che il lavoro deve essere di coordinamento quello che è noto, proprio parlando di casi concreti, nel quotidiano, al di là del caso singolo, che cosa era successo a questa persona a Napoli, per quanti anni veramente aveva scontato in carcere o meno, qui poi ci possiamo riflettere, anche se ovviamente i dati non, del caso specifico non possiamo insomma saperli, quindi inutile addentrarci speculazioni. Però quello che volevo dire è che un lavoro fatto di coordinamento, dove tutti parlano la stessa lingua sostanzialmente, serve per come deterrente all'autore della violenza di reiterare la violenza o avere vita meno facile nell'agire la violenza. Perché faccio un esempio concreto: se un'autorità giudiziaria emette un provvedimento, che vuol dire concretamente tu soggetto che ti sei reso responsabile, comunque sei indagato per un determinato reato e ci sono indizio, prove di colpevolezza tali da permettere al giudice di emettere una misura cautelare, per esempio divieto di avvicinamento, se la lingua che parla un tribunale non è la stessa di un altro tribunale, per esempio il tribunale civile o il tribunale per i minorenni, che deve poi per esempio regolamentare le visite di eventuali figli nei confronti di due genitori che rimangono comunque affidatari anche se poi non vivono più insieme, ecco qui c'è un problema, perché allora la donna che deve incontrare per esempio il padre per dargli il figlio, quella può essere un'occasione di violenza. Ci sono tante sfaccettature, ogni caso assolutamente veramente a sé e quindi non si può fare una generalizzazione, perché io veramente assisto a Roma, in tante realtà anche del nord, del sud Italia, dove veramente con il sacrificio e la determinazione di tante persone e del volontariato, appunto i centri antiviolenza, che non sono mai sufficientemente sostenuti, ma anche delle istituzioni, forze dell'ordine, autorità giudiziaria, ho veramente un grande impegno, perché ci si crede e ci si crede che questi non sono reati riconducibili a quella donna lì, ai singoli individui, quell'uomo lì. Esatto, e quindi in qualche modo pagasse le conseguenze, lo scotto della persona sbagliata che si è scelta. No, si deve riconoscere che la violenza contro le donne domani può veramente riguardare me, e anche se non riguarda me, riguarda me in quanto donna, riguarda ci riguarda come comunità, tanto, comunque, esatto, come comunità, è un danno anche, non dimentichiamoci, la violenza economica per il paese è enorme. Una donna uccisa in un paese dell'Europa occidentale è stato stimato costare allo Stato 1 milione, con una ricerca fatta in Gran Bretagna, 1 milione di sterline, quindi insomma, più o meno un po' di più di 1 milione di euro, che vuol dire che anche a chi non ritiene questa essere una priorità, perché ce ne sono anche altre, invece va anche visto questo come un danno proprio, mi viene da dire, erariale, cioè proprio di se economico. Proprio non si vuole fare attenzione sull'altro aspetto. Professoressa Boldri, le leggo solo alcuni dei tanti messaggi che sono arrivati, poi mi dice lei quale vuole di questi commentare, abbiamo ancora 2 minuti. Simone scrive: bisognerebbe parlare anche di quelle donne che non solo vivono per anni con uomini violenti, ma addirittura si sposano con chi ha già ucciso una donna, sono vittime prima di tutto di se stesse, bisognerebbe aiutarle a capire i motivi della loro condizione per salvarle da tale orrore. Vabbè, questo riguarda le donne, poi la questione degli uomini è diversa. Samantha dice: credo che la maggior parte di noi non afferri bene di cosa si parla, perché i potenti mezzi di informazione fanno disinformazione e spettacolarizzazione. Vabbè, Giorgio: preferisco addossare le colpe a chi singolarmente agisce, non a un genere, indipendentemente dal fatto che sia quello a cui appartengo o meno, per l'appunto. Questo non significa che non si tratti alcune volte, alcune no, di un problema anche culturale. Però diremmo, professoressa Boldri, è un grosso problema culturale che appunto ha attraversato i secoli della storia umana e ancora non si riesce a debellare questa mentalità misogina, no? E di asimmetria tra i due sessi. Io cerco di rispondere in maniera anche un po' raccogliendo tutte queste sollecitazioni. Ha ragione l'ultimo ascoltatore di dire non si può dire gli uomini sono violenti, nessuno mai vuole e deve fare questa generalizzazione. Per fortuna la maggior parte degli uomini, come delle donne, sono persone che si sanno relazionare, che sanno accettare la fine delle relazioni. Esistono anche i psicologi e i terapeuti per aiutarle a gestire momenti di depressione, di incertezza, eccetera, eccetera, no? E quindi non è, il conflitto è diverso dalla violenza. Però fa parte di una certa cultura maschile, macista, patriarcale. Misogena, che non vuol dire, attenzione, che anche i dati abbastanza recenti di una ricerca, indagine fatta a livello dei 28 paesi dell'Unione Europea, ha evidenziato anche paesi dove il ruolo della donna nella società e nel mondo del lavoro, per esempio penso alla Danimarca, ma così come anche la Norvegia, è storicamente più avanti, anche lì sono stati rilevati dei dati di incidenza della violenza altrettanti quanto in altri paesi. Allora qui c'è da dire che appunto è come se l'entourage della relazione intima permane però questo aspetto sociale e culturale di misoginia, di odio dire, nei confronti delle donne. Esatto, questo non vuol dire, e per rispondere anche all'altra insomma, ascoltatrice e tanti altri che osservano questa cosa, che poi ci sono, e questo lo facciamo spesso quando facciamo proprio la valutazione del rischio, degli indicatori che possono rendere una donna più vulnerabile di un'altra. Se noi abbiamo a che fare con una donna, anche un'amica, una collega di lavoro, che di fronte a violenze che noi percepiamo esserci o sappiamo esserci, minimizza, giustifica quant'altro, non dobbiamo è pensare più vulnerabile, no? Sì. Che, ma è più vulnerabile, quindi l'aiuto deve essere aumentato, duplicato, diventa appunto un ulteriore bisogno di tutela, professoressa, non di allontanarla Boldri, perché il problema è suo. Purtroppo torneremo a parlarne, lo sappiamo, però intanto cerchiamo ogni volta di gettare dei semi quando possiamo. Grazie intanto professoressa Anna Boldri, grazie e grazie, buona continuazione. A voi, buona serata. Grazie. Ora invece andiamo su un altro caso di cronaca di tutt'altro tipo, questa la coppia di coniugi uccisa nel Ferrarese dal figlio 16enne e dall'amico 17enne. Adesso il legale del 16enne dice: sconvolto e pentito, è una persona che ha bisogno di grande aiuto. Ne parliamo con Marco Zavagli, che è direttore di Estense.com, giornale online di Ferrara. Buonasera Marco. Buonasera. Allora, quali sono le ultime, gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda? Si parla ancora dei 1.000 euro che il 16enne avrebbe promesso all'altro per uccidere i genitori? Sì, un acconto di 80 euro subito e il, chiamiamolo, il saldo a lavoro fatto. E gli ultimi aggiornamenti sono giudiziari, nel senso che nel pomeriggio ci sono stati davanti all'interno del carcere minorile di Bologna i due interrogatori di garanzia. Entrambi gli indagati, riferiscono i rispettivi avvocati, hanno confermato sostanzialmente in toto quanto già detto nel primo interrogatorio davanti ai carabinieri di Comacchio. Mm. Grosse novità dal punto di vista della dinamica non emergono. Oggi pomeriggio io sentivo l'avvocato Gloria Bacca, che difende il figlio, il sedicenne, che ha avuto l'impressione, questo mi diceva, di una premeditazione molto, molto breve nel periodo, nel senso sembrerebbe che l'omicidio sia stato pensato nelle poche ore prima, al massimo un giorno prima del tragico evento. Adesso capiremo nei prossimi giorni, insomma, comunque la dinamica sembra abbastanza chiara, no? Mancano forse più nitidamente le motivazioni, anche se si parla di contrasti, no? Tra il figlio e i genitori. Sì. Sul movente si stanno rovelando gli inquirenti. Oggi è emerso il fatto che il padre del ragazzo, il padre del sedicenne, il giorno prima avesse chiamato, o nei giorni precedenti avesse chiamato il vicepresidente per avere un colloquio informativo sulla situazione scolastica del figlio. Il figlio, la presidente me lo descrive come un ragazzo, un alunno come tutti gli altri, non il classico tipo da, non il Franti da sette in condotta, ma aveva sicuramente uno scarso rendimento, e questo era fonte di rimprovero da parte dei genitori. Circostanza tragica, l'incontro con il tra padre e dirigente scolastico doveva avvenire il giorno stesso in cui poi è successo il duplice delitto. Grazie Marco Zavagli intanto, direttore di coro di Estense.com. Grazie a voi. E adesso ci prendiamo questa pausa per aggiornare chi sta viaggiando, torniamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, vedo diversi messaggi a proposito del tema della violenza sulle donne di cui abbiamo appena parlato. Bisogna insegnarlo ai bambini che la violenza è sbagliata, dovrebbe essere uno dei fondamenti dell'educazione civica. Molti chiedono appunto l'educazione nelle scuole, in famiglia. F, si firma F, mamme, educate i vostri figli a sopportare le sconfitte, i maschi a rispettare le donne a partire dalle sorelle, e molti chiedono pene durissime, effettivamente, o più dure

non vi sorge il dubbio che l'ALDE, cioè il gruppo dei liberali europei a cui dovevano allearsi il Movimento 5 Stelle, poi dopo è fallita questa alleanza, siano loro in realtà, dice, a fare la figuraccia, se sono loro ad essersi fatti indietro. Dice quel gruppo deve sfaldarsi in quanto la Gran Bretagna è fuori dall'Europa, eccetera eccetera, dice Marco da Varese. Effettivamente, diciamo, la cattiva figura l'ha fatta anche Verhofstadt e il suo gruppo di liberali, che prima hanno fatto l'accordo, lui in prima persona con Grillo, e poi invece si è ritirato. Però certo, anche il Movimento 5 Stelle, diciamo, è una situazione un po' particolare in questi giorni. Adesso ci lasciamo per aggiornarci poi brevemente, come sempre, alle 22.